14 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 14 dicembre. Niente di nuovo né a scuola né in casa. Non ho ancora rivisto il babbo e ormai spero che quando lo rivedrò gli sarà già passato ogni cosa. Ah, stasera purtroppo, giornalino mio, l'ho visto e l'ho sentito. Scrivo col lapis stando disteso sul letto perché mi sarebbe impossibile stare a sedere dopo avercene prese tante. Che umiliazione, che avvilimento! Vorrei scrivere ancora raccontando la causa di questa nuova bufera che mi si è scaricata sulle spalle, anzi per essere più esatti, sotto le spalle, ma non posso. Soffro troppo nel morale per l'amore proprio che è stato colpito a sangue e anche nel materiale che è stato purtroppo anch'esso colpito a sangue senza nessuna pietà. Fine del 14 dicembre.